quando si ha un martello nella testa si vedono tutte le cose a forma di chiodi. Con questa frase, ieri Serge Latouche ha iniziato il suo incontro intitolato Critica della ragione autoritaria, che si è tenuto all'Università Bocconi. Lunedì 18 ottobre, aula Zappa, un incontro organizzato dalla rete Lilliput dell'Università Bocconi. Può sembrare un paradosso quello di parlare di antiutilitarismo all'interno di quello che è un vero e proprio tempio della razionalità economica, cioè l'Università Bocconi, e questo è un paradosso che è stato sottolineato più volte anche dallo stesso Latouche, ma Latouche è venuto all'interno della Bocconi, invitato alla Bocconi, proprio per parlare di quella che lui definisce un'altra mondializzazione. Serge Latouche, un pensatore che immagino molti conosceranno di già, professore emerito di scienze economiche presso l'Università Paris Sud e soprattutto fondatore del MOS. Il MOS, il movimento antiutilitarista nelle scienze sociali, che finalmente ha una sua emanazione anche in Italia, è proprio l'incontro di ieri che prevedeva anche la presenza introduttiva di Marco De Riu, che è presidente dell'associazione antiutilitarista di critica sociale. Dicevo, anche in Italia c'è un'emanazione del MOS, è stata fondata da poco tempo, e questo incontro è servito anche per esporre temi e progetti di questa sede italiana del movimento antiutilitarista nelle scienze sociali. Dicevo di Serge Latouche, un pensatore radicale nel senso vero e proprio letterale della parola, nel senso che va alla radice dei concetti e delle idee. Infatti non a caso buona parte del suo intervento ieri, un intervento di fronte ad un centinaio abbondante di persone e al quale è seguito poi anche un dibattito piuttosto vivace con scambi di vedute e di opinioni, un pensatore radicale che va alla radice di parole quali sviluppo sostenibile, una contraddizione in termini secondo Serge Latouche, crescita e soprattutto globalizzazione o alla francese mondializzazione. Latouche si definisce non un pensatore altermondialista ma un pensatore antimondialista, perché non sarebbero possibili altre mondializzazioni se non quella della globalizzazione neoliberista. Bisogna invece andare alla ricerca di altri mondi, quegli altri mondi di cui parla anche il subcomandante Marcos, nel rispetto in una vera e propria democrazia per le culture. Il pericolo principale sottolineato da Serge Latouche, che ha accompagnato tutta la storia dell'Occidente, è proprio quello dell'imperialismo, e il suo progetto, il progetto di cui parla il MOS e Latouche, è invece un progetto pluriversalista, che quindi gioca proprio con le parole universalismo e pluriversalismo. Bisogna togliersi il martello dalla testa, il martello di cui parlavamo all'inizio, il martello nella testa del mondo occidentale è ovviamente l'economia, un'economia di lavoratrice, soprattutto nel campo delle scienze sociali, se stiamo anche all'argomento specifico dell'incontro di ieri. Togliamoci il martello dalla testa e costruiamo un progetto pluriversalista. Questo è il messaggio finale di Serge Latouche, applaudito alla fine del suo incontro all'Università Bocconi di ieri, lunedì 18. Per Amisnet, Lorenzo Mazzi di Radio Onda d'Urto Milano.